Nervios. sfida di pure se così. Pensa bene, pensa qui. C'è tutto sul bordo di un marciapiede o in piedi ai margini della società. Non pensavi di farla franca, non pensai fosse così. Se uscito a lottare, non importa bene così. Mani fuori e letto solo, grande vuoto da spartire. Mani fuori e dentro solo, grande vuoto da scoprire. Da casa, ben grande detto nazionale, tutto a posto. Con il grande maria del grande mare, guarda fuori e divise, vedi gente come te, sputa addosso a quelli che fanno finta di essere. están en la calle, luchan por lo que creen. Esta es la batalla por la libertad. La juventud reclama el poder. Se realista, pide lo imposible. La imaginación al poder. Bajo los ladrillos está la playa. Reforcemos la lucha contra los derechos humanos, promoviendo y amparando al terrorismo dentro del pleno respeto a la extorsión y la violencia en el mundo. Para mantener la bella controlada. see you across your eyes. Destiny for down bottom alive. You know right to find his out. See you across your eyes. Destiny for down bottom alive. You know right to find his out. Yeah. censurar Just a